No, scusa tu, stavo provando, siccome sono affacciato un altro cavo d'antenna qua dietro dove c'ho l'apparato, stavo guardando se stavo uscendo di portante. E beh, tu. Vediamo quello che stai uscendo, e allora, come va, sto bene, scappa. Mio quinto appena adesso di fare lo spezzone, che me l'ho fatto nuovo perché mi ha rotto le scatole, uno che ne avevo. Finito adesso, cercavo un pezzo di capo per allungare un filo, ho fatto anche questo. No, no, ho messo un computatore a tre uscite, siccome abbiamo attaccato con l'altro baracchino e prima avevo attaccato l'antenna ogni volta con la Mantova, adesso ci ho messo tre uscite, uno su questa, uno sull'apparato HF e uno sull'Intec, così ce l'ho sul coso, quando devo parlare commuto direttamente. Beh, che ho pagato, hai fatto bene, hai fatto, io ho messo, pure io ho messo il commutatore, ho messo un po' di roba là, sto finendo a fare la stazioncina mia, ho messo il commutatore perché c'ho varie radio, poi il quartiere, poi c'ho varie radio, poi c'ho ancora, cioè ho finito adesso di, cioè devo mettere solo un capo, un'altra radio, mettere un capo, un'altra radio, ho finito. Qua è finita la stazione. Metterli fini tutti a posto. Piano piano ti tieni una stazione, una radio definitiva che te la tiene per cose, e poi c'è una radio di riserva, diciamo, per altre cose. E dimmi un po', ma l'antenna molto lontana dalla stazione? Sul tetto, Sì, ma quanti metri c'è di cavo? Mi pare una quarantina, non me lo ricordo. Ma lo stesso cavo che c'era quando c'era tuo padre o è cambiato tutto? Capo, è una stazione decente adesso, è una stazione decente. Adesso sto terminando di farla, cioè sto terminando e via. E poi va molto meglio, capito? No, ho detto, se il capo è quello vecchio quando c'era tuo padre o l'hai cambiato? Ma poi non ne ha mai avuto l'antenna sul tetto. Ah, non ne aveva, io pensavo ci avesse l'antenna sul tetto suo babbo. E quindi hai messo tutto nuovo, capo nuovo, antenna, eccetera. Sì, H155. E quindi stai andando anche con un capo buono, non hai messo il RG58, quando c'è una tratta così lunga è inutile risparmiare i 20 euro che poi devi durare tutto a capo, fa una volta solo la spesa. E dimmi un po', cioè, quindi all'ultimo piano se tu c'hai l'antenna sul tetto proprio, è il palo molto alto? No, primo piano, 4 metri di palo ci sono. Come primo piano? Non abitavi in condominio tu? Ah, in condominio sì, ma ti do. Ah, non ho capito allora, mi hai detto c'è cioè, 40 metri o 4 metri di cavo, non ho compreso. No? Non mi ricordo, però deve essere una quarantina dovrebbero essere, perché tra la discesa, tra tutto, dovrebbe essere una quarantina di metri. Capito Roberto? Sì, ho capito, allora ho capito bene. No, ma volevo dire, il palo dell'antenna è molto grande o piccolo? Il palo dell'antenna è 4 metri, cioè è alto. In modo che sia distanziato dal terreno, diciamo, dal terrazzo, dalle tegole, in modo che riesca a irradiare. Se è troppo attaccata l'antenna non irradia, non c'è radiali con l'antenna. No, non ha radiali, per fortuna, non c'è via radiale. C'è questa cosa che non mi piace, da burro trasferisco e via. Non sei ancora a gatto che sono andatore. Ha inteso sempre, quei PL si sciolgono e ha chiamato di spezzone e vanno rabbisciosi, come ti mai? Perché il soldato non bisogna avere un missile soldatore, bisogna fare la soldatura e poi basta. Cioè secondo me si droga il soldatore, perché non è possibile, l'ho fatto io adesso, dai, non c'è niente. Infatti bisogna stare attenti, ma poi non c'è bisogno di arrivare a temperature alte, ci sono quelli regolabili. Una volta che scioglio lo stagno, il centrale, la parte centrale prima di entrarlo, te lo stagni bene, poi glielo infili dentro, li fai colorare appena ricoso, un secondo e la saldatura viene bella fredda, è bella calda. Certo. Cioè lo fai come lo devi fare, cavolo, ma saldi, giusto, lo saldi, cioè non devi, appena appena, ta, a posto, sono andato, cioè, io se ti faccio vedere le mie spezzoni sono una bomba, insomma, non si guastano mai, Oh, già ci credo, poi non è che bisogna essere scienziati per attaccare un piede, basta farlo con un po' di attenzione e basta, già viene bene. Oh, ma tu ti devo lasciare, sto facendo solo una prova, devo fare altre cose. Sì, saluto, grazie del coso, della conferma che stava andando tutto bene. Buon proseguo, ciao ciao. Ciao Roberto, ciao. Bella papà. Ciao. Ti mando una foto, ti mando adesso. Ma come stai uscendo? Con che radio stai uscendo, Anto? Il 48. Il 48. Figa, bene, si sente. Bella la tua voce, bella piena, corpo. Che microfono c'hai? MP4 c'ho. E ti sto ascoltando con la cassa esterna, Sento benissimo. Oh, stai uscendo con una meraviglia, beh, perfetto. Ok, ma pulito o aiutato? Come Robè? Se sei liscio, ho detto. Sì, vabbè, non c'ho tanti fatti. No, sei quasi 9.30, con i picchi arrivi a 9.30, un segnale da paura, pochi ce l'hanno un segnale così. Adesso guardati rossi sono, adesso ti mando una fotografia, a vedere se ti piace, cavolo, è molto carino, guarda. Ok, vabbè, ti saluto, tanto mi è arrivato il messaggio adesso. Dai, ci sentiamo, ciao ciao. Sì, guardate, mi sono mandato la foto. Aspetta, guarda. Ma questo è un coso, uno strumento che ti indica la modulazione, il ROS e il vacuo. Bello però. Sapevo che ti piaceva. Bello, bello, complimenti. Poi ho visto c'è l'altoparlante esterno. Va bene, la radio di fianco sembra la 48, vedo la guida della staffa. Sì, sì, no, io... Guarda, principalmente il 48, perché lavoro, mi piace molto, anche se prende colpi. Vabbè, purtroppo quello, però come modulazione la 48 è spettacolare, va benissimo. Sarà brutto a vedersi, tutto quello che voi, ce l'ho io nuovo, di faccia, nuovo, cioè, me l'hanno regalato, questo l'ha tenuto una settimana e me l'ha data a me. È stata la prima radio che ho avuto, a parte vabbè il portatile, l'ho usato un paio di giorni, e poi sono andato subito col patch, con lo stazione base. A me non piacciono i baracchinetti piccolini, poi ne ho preso un altro, quello l'Intec, quello bello. Bello comunque questo, è della linea di quello che ho io, della Intec. E dove l'hai beccato questo, Antu? Che cosa? Questo strumento? Ha tutta la passione. Io qualsiasi cosa che uso, lui mi misura, c'è cioè un commutatore, lui mi misura le stazionarie e mi fa vedere quanti watt sto uscendo. Capito? Sì, sì, l'ho visto, ho detto, dove l'hai trovato? Chi te l'ha venduto questo? Amico. Bello, complimenti. Non ne ho visto molto in giro di queste cose qua. Tienitelo bello conto che è un bel apparecchio. Sì, non lo vedo da nessuno, no. Ehi, a te ne dico, intanto è una cosa che funziona bene, è bello anche esteticamente. Ma è l'altro parlantino, Antu, se c'hai spazio, buttati qualcos'altro di un po' più grandicello, così le prestazioni sono un po' migliori. E questo è piccolino, mi sembra un altro parlantino troppo piccolino, dai. Questo è un signore autoparlante, c'è anche la Atenua pure, questo chi è un Midland, l'autoparlante originale. Ah, mi sembra quello piccolino, no, perché io ne ho un paio di questi piccolini da camion, allora quello più grande, l'autoparlante non è quello che sarà a tre dita, no? No, guarda questa storia, guarda. Mandato adesso. Ah, non è piccolo, no, sembrava piccolino, perché io ne ho un paio di questi che saranno gli altoparlanti da 5 cm di diametro, questo già è grande, è della mitra, no, questo forse quelli piccolini, tipo quelli che usano i camionisti, piccolini, che sono tipo un cellulare di dimensione. È una cosa seria questa, è molto serio come autoparlante. Poi una volta c'ho il portatile, per modulare là c'ho il portatile. Oh, già va bene, piano piano, tu già stai andando bene, dai. fatti bene i fili che non si intralcino con disturbi di alimentatore, cerca di allontanarli il più possibile e selezionare tutto in modo che non ti crei rientri e cose varie. Ok, di nuovo fatto, ti saluto, dai che devo fare altre cose. Ciao ciao. Ciao Roberto, ti saluto. Questo è bello, molto bello. Ok, ciao ciao. Perché?